Presente. Si chiede inoltre di conoscere la bontà delle realizzazioni di fine. genere. All'amministrazione, per quanto di competenza e quindi dell'attività programmatoria futura, al fine di arginare il fenomeno dilagante del mancato pagamento dei tributi locali, si chiede di conoscere quali azioni, al di là di quelle ordinarie, tipo avvalersi di Equitalia, che si sono rivelate fallimentare, intende avviare per velocizzare la capacità di riscossione dei residui attivi di questo ente, anche al fine di ridurre l'ammontare dei fondi crediti di dubbia esigibilità nei prossimi anni. Questa è una, si chiede risposta scritta, l'altra invece è... Io mi chiedevo al consigliere, scusi la battuta, se c'erano consiglieri morosi. Non lo so, nell'ammontare io non chiedo i nomi, no, ho chiesto numeri, questo sarà il compito dell'amministrazione. Questo è secondo coscienza di ognuno di... A responsabile del settore urbanistico e a responsabile del settore tributi. Interrogazione. Richiesta di informazioni sull'aggiornamento della banca dati relativa alla classificazione catastale degli immobili ricadenti sul territorio comunale. Si chiede di ricevere per iscritto dai responsabili di indirizzo di codesto spettacolo comune informazioni in merito alle modalità con cui viene avviato il controllo delle categorie catastali degli immobili ricadenti sul territorio comunale, case private, negozi, eccetera. In particolare si chiede di sapere come mai solo dopo diversi anni e solo dopo specifiche denunce da parte di cittadini, altrimenti tutto rimarrebbe imputato, l'ufficio scopre che ad esempio attività commerciali sono state svolte in locali dichiarati come magazzini o garage, oppure abitazioni private che non hanno per nulla i requisiti per essere classificati in categoria di tipo economico popolare. Si chiede di conoscere se ad oggi la banca dati urbanistica del comune è realmente aggiornata secondo le effettive destinazioni d'uso ed ha le caratteristiche degli immobili ricadenti sul territorio comunale. Anche per questo si richiede risposta scritta. È indirizzata all'ufficio tributario e allo urbanistico. Tutte e due. Sì, Presidente. Grazie, Presidente. Aspetta, ho visto gli errori. Presidente, un'interrogazione era fatta al signor Sindaco e all'assessore dei servizi cimiteriali. Dopo l'increscioso reato consumato tra le mura del cimitero comunale relativo al vilipendio e la deturpazione del cadavere, dopo i continui furti di manufatti in pietra non ancora censiti da questa amministrazione, in molti casi vere opere d'arte realizzate da artisti scalpellini, visto che il cimitero risulta essere di grande pregio storico monumentale, si interroga il sindaco sull'opportunità di installare all'interno e all'esterno del cimitero comunale un sistema di telecamere al fine di porre un freno al susseguirsi degli atti in premessa, di effettuare un censimento delle opere in pietra presenti nelle facciate delle cappelle gentilizie. Sindaco, come vorrei molto ricordato quello che è successo, penso che qualcosa, qualche rimedio bisogna porlo. L'altra interrogazione riguardava il responsabile per, come oggetto, responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, Energy Manager. Con determina numero 20 del 26/4/2012 si conferiva da parte del sindaco incarico in oggetto all'ingegner Gilberto Massimiliano, che come risulta dalla determina dirigenziale a firma dell'ingegnere Donetti in qualità di dirigente del quarto settore, giusta determina sindacale numero 53 del 30/12/2014, viene riscontrata il regolare espletamento dell'incarico. Di che trattasi? Constatato da parte del dirigente del quarto settore la regolarità delle prestazione in oggetto, non che la rispondenza della stessa. Accertato dall'interrogante che il dirigente del quarto settore non era a conoscenza di alcun atto relativo all'ingegnere Gilberto e al suo incarico presso questo comune, interrogo il sindaco e l'assessore se l'incarico in oggetto risulta ancora in essere, di conoscere gli atti espletati dal tecnico dal 26/4/2012 ad oggi, l'importo dell'incarico, quale risparmio in termini economici ne è derivato per le casse comunali dalla nomina del professionista. Sindaco, mi correva l'obbligo perché, come più volte detto in quest'aula, quando uno va a chiedere qualcosa ai dirigenti o ai dipendenti di questo comune, si sente sempre rispondere che loro non ne sanno niente, che non c'erano e che all'atto praticamente di quella cosa che si cerca loro non erano praticamente stati informati. Perché questa situazione l'avevo chiesto all'ingegnere Donetti di sapere praticamente quali erano praticamente le competenze dell'ingegnere Gilberto, e mi ha detto praticamente che non era a conoscenza. Quindi ecco perché mi ha fatto l'interrogazione, purtroppo. E infatti proprio per questo l'ho citato proprio per questo, e l'ho anche allegata, perché è a firma giustamente sua, per quale dice di non essere a conoscenza. Poi ho una richiesta formale di visura, rogiti e autenticazioni, scritture private. Il sottoscritto consigliere Cappellani Salvatore fa formale richiesta di conoscere tutte le visure, rogiti e autenticazioni di scritture private effettuate dal segretario comunale negli anni dal 2010 al 25/6 del 2015. Sindaco, questa praticamente è una, diciamo, sì, perché ho raccolto praticamente e l'ho messa su carta. A fronte dei vincoli finanziari sempre più restrittivi, alcuni sindaci ricorrono alla prassi di conferire incarichi di consulenza, comunque professionali, gratuiti, è un modo di dire, convinti di essere esonerati dal seguire le norme di affidamento previste per gli incarichi professionali in genere. Le norme previste per l'individuazione di esperti per incarichi e consulenze di tipo professionale vanno comunque applicate in tutti i casi, sia che siano con costi, sia che siano senza costi, in mancanza di una norma del legislatore che preveda il contrario. Non c'è in vero disposizione di legge che preveda esoneri delle procedure e degli atti previsti. Il sindaco, nel nostro caso, determinazione numero 20 del 26/5/2015, per pervenire correttamente all'individuazione di un professionista, prima di conferire l'incarico, avrebbe dovuto procedere in vero a dotarsi di un regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi in conformità a quanto previsto dalla direttiva della funzione pubblica dell'11/3/2008 e della delibera numero 25. A deliberare l'indicazione di apposito avviso pubblico, motivandone le necessità, specificando in particolare la carenza di idonee professionalità nell'ambito dell'ente o azienda pubblica. A pubblicare il relativo avviso pubblico con l'indicazione di tutti i requisiti di ammissione e le modalità di valutazione dei titoli. A procedere alla valutazione comparativa del curriculum dei candidati, a procedere alla stipula di un disciplinare di incarico. L'incarico fino alla scadenza del mandato sindacale, quindi di potenziale lunga durata, nome determinato infatti da singola necessità o emergenza sopravvenuta. Pertanto è soggetto al rispetto delle previste procedure. Non attuando procedure nel rispetto della trasparenza e dei riferiti obiettivi socialmente utili, l'affidamento dell'incarico in questione rasenta la illegittimità per probabili evidenti vizi procedurali, anche se l'incarico è dichiarato a titolo gratuito. Apparentemente gratuito è lecito ritenere, in quanto ci si fa scudo di atti di scorno che sono forme discutibili di transito dei pagamenti, ma che non annullano la violazione determinata dall'assenza del previsto avviso pubblico e della successiva comparazione tra i richiedenti. Si segnala per il mancato espletamento di una procedura comparativa debitamente pubblicizzata la sentenza del TAR del 17 luglio e del 29 settembre 2008. Il rimborso spese indiretto con il metodo dello storno senza l'applicazione piena della norma, regolamento avviso pubblico, bando, valutazione comparativa, è sempre un modo di sfuggire alle regole, privilegiando scelte individuali, soggettive e non frutto di regole, confronto comparativo fra quanti avete diritto e in grado di rispondere alle necessità dell'amministrazione. Nel merito, c'è fuori dalla nebbia di gratuità dell'incarico un potenziale flusso di somme per compense e spese vive sia da parte delle compagnie assicurative sia di volta in volta con fonte che in caso di giudizio da parte degli organi giudiziari, somme che il comune si impegna a spornare all'incaricato o ai legali dello stesso individuati, che comunque devono passare dalle casse comunali, generando di conseguenza problematiche di natura amministrativa e fiscale. Lo storno avviene dopo l'incaricamento di eventuali somme nelle casse comunali, per cui sarà necessaria la pubblicazione di liquidazione spettante ai soggetti incaricati sul sito comunale dopo le procedure contabili previste. Delegare, invero, la scelta dei legali al titolare dell'incarico per azioni in nome e per conto del comune non sembra un atto serio e ponderato da parte dell'ente pubblico per eventuali risvolti negativi delle azioni giudiziarie, ma anche per questioni di cessione di una competenza specifica degli organi preposti al comune, del comune. In nome e per conto del comune si otterrebbe peraltro, tra gli altri, solo il fine di evidenziare la presenza presso gli uffici comunali di quanti interessati, avvocati, potenziali aspiranti, funzionari di compagnie assicurative, eccetera, inspiegabilmente in altre sedi. Il ricorso alla consulenza gratuita è invero spesso configurabile come un tentativo di raggirare le norme sulla contabilità pubblica. Non è il nostro caso, visto che trattasi di incarico gratuito o falsamente gratuito, ma certamente è un sistema per raggirare le procedure previste per l'individuazione del nominabile, derogando ai principi di imparzialità, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, senza nulla togliere al nominato, di cui si riconoscono indubbie doti di professionista e competente, sarebbe stato opportuno estendere l'opportunità a tutti gli iscritti all'ISPA, sezione di Siracusa, presso il poco numero 66 iscritti, seguendo i previsti metodi di trasparenza e di imparzialità. Gratis sì, ma sempre di guadagno trattasi, anche se spornato. Perché escludere la possibilità di accesso al guadagno ad altri potenziali e riconosciuti esperti? Che sia l'incarico retribuito, non c'è dubbio, perché in caso contrario si può essere certi che l'incarico, in quanto serio e competente professionista, termine sconosciuto al sindaco, sarebbe ricorso ai dettami dei codici di deontologia professionale che impongono l'impegno morale per gli associati di non effettuare prestazioni professionali per compensi inferiori ai minimi tariffari, configurandosi e determinando inversamente illegittima concorrenza. La leggerezza del nostro sindaco nel conferire incarichi gratuiti, apparentemente gratuiti o parzialmente gratuiti, riporta ad una precedente sua determina numero 1 del 22 gennaio 2015, un altro caso che passa nel silenzio o poco considerato, avvolto arrettatamente nella nebbia e nell'abbaglio dell'essere capace ad ottenere servizi da un incarico a titolo gratuito, incarico continuativo anche se non superiore ad un anno, incarico viziato da vincoli di parentela anche se il sindaco dichiara che tra le parti non sussistono vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado. È vero, tra il sindaco e l'incaricato non esistono problemi di parentela o affinità, ma il problema sorge con il componente della sua giunta, che è logico inserire fra quelle parti che il sindaco dichiara ancora una volta assistiamo al silenzio, assenso di chi dovrebbe controllare. Sulle opportunità di incarichi a titolo gratuito, salvo che non siano per necessità urgenti, una tanto, non periodici e sistematici, diverse ragioni portano ad escluderli. Il sindaco nella sua determina di incarico parte dal riferimento dell'articolo 14 legge regionale numero 7 del 26/8 del 92, secondo cui il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono un rapporto di pubblico impiego ad esperti esterni all'amministrazione. Il sindaco, quindi, leggendo la premessa considerata, incarico a tempo determinato, intende espletare le attività a sua competenza anche con il rapporto di esperti esterni. Lo staff del sindaco, dipendenti, assessori, consiglieri di riferimento, viene ampliato e arricchito da esperti esterni. La determinazione del sindaco inoltre è contraddittoria, da far pensare ad un diverso scopo, tutto da chiarire rispetto agli rispetto agli intendimenti. Vi si legge in premessa: considerato fra gli obiettivi dell'amministrazione comunale vi è il rilancio della zootecnia locale, lasciando intendere che c'è progetto concreto e continuo da seguire. Poi vi si legge: ritenuta l'opportunità dell'ente di disporre, ove se ne ravvisi l'occasione o la necessità, delle consulenze di un esperto. Non c'è un progetto di riferimento, non ci sono avvenimenti o date che impegnano la presenza, si lascia tutto all'occasione, a generica necessità, alla casualità di intervento, elementi che fanno a botte con un serio progetto di valorizzazione delle tipicità locali. evito praticamente di leggere il resto, poi lo leggo praticamente agli atti. Potremmo parlare anche di altri casi passati sotto silenzio in questi 2 anni di sindacatura. Uno tra questi, lo cito per brevi linee, è il caso di un incarico che il sindaco durante una seduta consigliare dichiarò come necessario per ovviare a difetti di comunicazione tra l'amministrazione e l'esterno. L'incarico per qualche tempo realmente è stato assolto con le dovute attenzioni deontologiche del professionista, almeno nella forma esterna di applicazione e visibilità. Poi magari si fa ricerca e si scopre che l'incarico è retribuito non per tutto il periodo di attività, ma con la formula una tantum, legando alla promozione di una sola attività. Un dubbio sorge atroce: è il sindaco che ha trovato le risorse necessarie solo nell'attività dell'incarico, godendo tuttavia di un'assistenza professionale che gli consente di avere spesso la ribalta, oppure è stata una scelta del professionista, dettata dalla deontologia professionale o da necessità individuale? Siamo convinti, signor sindaco, che ogni incarico debba seguire regole certe e trasparenti ed essere aperto con i previsti avvisi a quanti aventi titolo, evitando la sovrapposizione di incarichi spesso tra loro incompatibili. Il caso appena citato merita una trattazione a parte, più completa. Gli incarichi vengono spesso attuati con l'obiettivo dell'utilità sociale. Bene, ma i soldi pubblici non possono essere spesi a beneficio dell'immagine di una sola parte politica e non di tutti i rappresentanti della cittadina. Sarebbe preferibile utilizzarli solo per i soliti fini amministrativi, rifuggendo da questi clientelari e clientelismi o di parte. In ogni caso, gli incarichi esterni, se proprio necessari, segnano un apposito regolamento e siano aperti a quanti aventi diritto nell'ambito almeno provinciale. Grazie Presidente. Rispondo con quanto scritto praticamente da lei e bene, se c'è qualche problema corre ai riparo. Se non... Sì. Io volevo portare a conoscenza un piccolo episodio per quanto riguarda il servizio civile. Da premette che io l'ho seguito, l'ufficio ha parlato benissimo, responsabile dell'ufficio ha parlato bene, le procedure fatte da bene, la relazione va bene, e carità. Tutto questo io l'ho premesso così, perché la mia chiamiamo l'organizzazione a voler conoscere questa procedura e farla conoscere anche a tutti, è una cosa. Allora, premesso di tutto, perfetto. Però c'è stato qualcosa che non mi convince nella società che gestisce, non so se è una società, un servizio civile, non solo quella che ha la struttura del servizio civile, se poi è passata a livello regionale, o se è una società che rende e deve fare questi colloqui e decide come e quando farli. Cioè, questo che volevo conoscere, perché ho capito che c'è una struttura che poi fa tutto questo, perché sono venute le persone autorizzate dal servizio civile a fare i colloqui e li hanno fatto, con teste, tutto recito, tutto perfetto. La mia domanda è questa, volevo conoscere da parte dell'assessore, se è possibile. Se la società può decidere di farlo tutti in un giorno e non dà la possibilità a chi è impegnato, perché deve fare un impegno, è malato, deve andare a fare fuori un esame, farlo in due giorni. In tre giorni, cioè decidere tre giorni. Dare la possibilità a tutti di avere un buon diritto. Mi pare che il servizio civile fa la pubblicità che si unisce con le manine e nel logo ce l'ha pure, significa unione, e invece così divide le ragazze, mi sembra. Perché ha deciso di farlo per un giorno, io ho chiesto al responsabile che gentilmente non abbia me, ha telefonato, cioè non è vero che fanno le cose, non si deve parlare, quando a me ha telefonato, il responsabile gli ha detto, dice guarda, noi abbiamo deciso che in un giorno, ma perché un giorno? Cioè perché questi volumi solo un giorno? Nel bando c'è scritto che chi non è presente significa come rifiuto, cioè non può più partecipare, salvo, virgola, salvo giustificato motivo, virgola. Non specifica il bando quale giustificato motivo è. Cioè se uno deve passare una visita urgente non è giustificato motivo. Uno deve essere ricoverato all'ospedale, questo gli ha risposto questo dirigente. Con visita immediata. Allora, se uno deve passare una visita non è giustificato un motivo, se uno deve sostenere un esame universitario non è giustificato un motivo. Cioè, io quello che volevo conoscere qual è il giustificato motivo dell'assenza. Il responsabile ha detto davanti a me che non è possibile tutto questo perché deve essere ricoverato lo Stato. Cioè perché, allora, lasciamo stare, non è cosa di fatto, non è importanza, ma io dico per il futuro, per dare la possibilità, perché non farlo in due o tre giorni, se poi mancano quei tre giorni, signore che si riferisce del candidato non lo vuole fare, ma dare la possibilità a tutti di sostenere il colloquio, perché significa l'assenza, significa esclusione dalla partecipazione al servizio civile. E poi se è giusto, cioè, questo fatto del sì, e se è giusto anche, questo è due, se è giusto farlo in un giorno soltanto, se non farlo in due o tre giorni, e se è giusto che l'individuo arrivi 11 giorni prima e non 30 giorni prima, come tutte le notizie la stanno facendo. Allora, per dare la possibilità sempre ai ragazzi che partecipano di non essere assenti perché posso sopravvenire in tempo. Ma era questo. Ho premesso che era tutto. No, per quanto riguarda solo l'intervento, per quanto riguarda il discorso della giustificazione per visite o per praticamente esame e cose varie, io credo che la presentazione di un'istanza non avrebbe sicuramente dato l'esito. Certo, ma su questo non ci sono dubbi, non è possibile. Assolutamente, non vedo ci sia stata una cosa. È stata rifiutata un'istanza dove c'è un documento, un certificato per il quale si dice che è ricoverato all'ospedale. Cioè, se c'è una cosa del genere allora è grave. Se è solo verbale la situazione credo che non sia. L'istanza non è stata fatta perché se uno va in ufficio e si informa e gli dicono no, tu non puoi presentare un'istanza di giustificato motivo perché fai un esame universitario. Non lo puoi presentare perché non vale, devi essere obbligatoriamente ricoverato. Non sono a conoscenza di una situazione del genere, ma mi sembra. Io dico se è giusto fare questa procedura, se è giusto che questa società fa così, se è responsabile di questa società non decide di fare questa presenza colloquio in un giorno e non va in due o tre giorni dà la possibilità a tutti di partecipare al colloquio per avere tutti quanti di questo. Questo è vero. Io sto parlando perché. In merito al mio lavoro 4-5 anni avevo 20 esami universitari per giorno e gli è stato detto la stessa cosa che io sono andato ad informarmi, gli è stato detto la stessa cosa, no, devi essere ricoverato, se no non fare niente. La presentazione di un'istanza in questo caso avrebbe messo la commissione nelle condizioni di valutare la situazione. Allora, se non c'è un'istanza presentata neanche ne siamo a conoscenza del fatto. Vabbè, ma non è per questo. Dico, ma è anche per capire, per dare trasparenza, diciamo, al servizio. Per un futuro, per il prossimo, certo, questo si fa. Due o tre giorni, dare a tutti la possibilità in un quadro di misura dato dai titoli, dato dal pallone, dato dal mese, questo non è importanza, quello deve essere bravo il candidato. Ma dico però dare la possibilità a tutti mi sembra una cosa logica. Cioè proprio il servizio civile che deve unire i ragazzi invece non si divide. Perché c'è stato il malumore tra i ragazzi. Cioè per i ragazzi è successo il malumore, hanno potuto partecipare, c'è cioè, chi fa quale giorno da possibile. Cioè, certamente è stato strano che io. Non abbiamo avuto conoscenza di queste cose. No, è stato fissato un giorno, anche perché ci sono stati. Ma non abbiamo presentato l'estate, sicuro. Cioè, l'istanza non è stata presentata, cioè ormai è sovrasseduto. Cioè, è inutile che tu presenti l'istanza per poi poter fare o bloccare qualche cosa e bloccare altri ragazzi, che non è giusto. In quel momento non c'è, però dico, per il futuro si può pensare di fare. Ma sicuramente. Voglio conoscere non è così. Grazie Presidente, no, riguardo a questo fatto, io non ero presente, però mi era stato detto che gli esaminatori, almeno quello che veniva da fuori, aveva chiesto i 2 giorni, però è stato il Comune che gli aveva detto che non era possibile, però non so, non lo so come è andato, perché non c'è, cioè nel senso che c'era un problema di disponibilità, non lo so. Il responsabile di Catania che ti ha detto si fanno un giorno e va, ho sentito pure io. In un giorno e parte, ognuno può suonare a mare, fa il suo tempo, fa il suo piano. E se tu non vuoi, dire, non puoi fare tutta la tua faccia, no, perché sei responsabile di qualche cosa. Certo. L'identità, comunque, io prima di presentare le 3 interrogazioni avevo 2 richieste da fare al Presidente. Posso? Beh, essendo, però essendo tanti ragazzi, magari si poteva studiare una soluzione, perché non è che sono 10, sono 30, 40, non so quanti erano, stanno. Penso era anche utile anche per loro per arrivare a fare un colloquio un po' più lucido. Poi parlano a Fantana perché qua non è per niente, perché l'esame sono stati sostenuti, il colloquio è stato sostenuto, i testi sono stati fatti bene, perché io sono stato qua e li ho seguiti, non è veramente, l'ufficio non ha lavorato bene, non ha lavorato bene sulla valutazione dei titoli, non è veramente, cioè, poi fuori qualcuno parla a Fantana, vabbè, quello è un altro problema, però invece di dire ragazzi così li dividiamo, cioè per delle, non so se dico, se c'è sciocchezza oppure che ci passa una mente a qualche dirigente di questa società, non so nemmeno che c'è questa società, o che c'è associazione. Allora, no, io volevo cominciare con 2 richieste al Presidente. Intanto entrando ci siamo accorti che questo consiglio non è stato pubblicizzato come avevamo usato fare all'inizio, cioè con... lo so, però... Vige San Paolo. Vige San Paolo. Però ritengo che insomma, è un'abitudine che non va persa. No, lo so, infatti vorrei non si perdesse, anche perché mi ricordo, ora non so se le altre volte perché non ho controllato, ma mi ricordo all'inizio usavamo metterlo sia qui che in Piazza San Paolo, quindi c'era anche una... Piazza San Paolo forse in questo momento è off limits, lo so. Quindi no, comunque una era questa. La seconda riguardava la trasmissione degli ordini del giorno. Io tempo fa le avevo chiesto, forse se ne sarà dimenticata, se era possibile allegare alle convocazioni anche la documentazione. Perché per esempio oggi vedo che c'è un ordine del giorno con oggetto iniziativa diretta al rafforzamento della sicurezza del Comune di Palazzuolo. Sarebbe bello insomma poterlo leggere prima in modo anche da poter preparare nel caso interventi o altro, quindi le chiedo se, visto che soprattutto quando viene mandato via PEC, se è possibile, quando sì, lo so, posso andarlo a prendere in segreteria, era una cortesia che volevo, vabbè, comunque era una mia richiesta, solo questo. Dunque procedo alle interrogazioni. La prima ha per oggetto interrogazione prevenzione desertificazione area Pineta. L'assessorato del territorio e dell'ambiente, con decreto 8 gennaio 2013, ha pubblicato una graduatoria di cui al secondo avviso pubblico diretto alla linea di intervento 2.3.1.b, già linea 2.3.1.4 del programma operativo FESR Sicilia 2007-2013, relativa a progetti per lavori di prevenzione dei fenomeni di desertificazione. Palazzolo risulta ammesso nella graduatoria pubblicata in Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia del 22 marzo 2013, con progetto finanziato da, vi si legge, 380.000 euro, diventati 270.000 a leggere altri fondi, probabilmente per ribasso. Un progetto che interessa l'area di Contrada Pineta, ritenuta dai tecnici a rischio. Palazzolo risulta inserito nella carta della sensibilità alla desertificazione della regione siciliana. A un profano il problema può destare meraviglia e incredulità. Non si immagina un comune montano a rischio di desertificazione. Palazzolo come altri, ovviamente. Tuttavia, leggendo le carte e approfondendo il tema, si apprende che al punto 1 gli interventi sono finalizzati a intraprendere azioni e misure di contrasto che tendono a mitigare i fenomeni che colpiscono quest'area. La desertificazione consiste nella progressiva perdita di fertilità e capacità produttiva dei suoli, che nel tempo provocano conseguenze negative anche in agricoltura e negli allevamenti, con una riduzione della biodiversità e della produttività biologica, nel caso specifico per l'erosione del terreno vegetale, che tende a scivolare a valle con progressivo affioramento della roccia sottostante. Lo scivolamento del terreno e del pietrisco crea problemi di stabilità, con conseguente scarsa sicurezza per chi si trova a transitare nella zona sottostante la strada provinciale 90 da Palazzolo Castelluccio. Al punto 2 si punterà, si legge, a ripristinare i muri a secco della zona, avviare un processo di piantumazioni di essenze arboree, adottare tecniche che prevedono la diffusione di assetti idraulico-agrari e di lavorazione dei terreni a basso impatto erosivo, realizzare una recinzione con rete e paletti di castagno per evitare il pascolo abusivo, contenere lo scivolamento del terreno con tecniche di ingegneria ambientale, come l'uso di fascine di legno, realizzazione di una fascia sempre verde con fichi d'India con la doppia funzione di contenimento del terreno e di fascia parafuoco. Nonostante le buone intenzioni e i fatti chiarimenti, il processo generale utilizzato in Sicilia sembra una delle tante invenzioni siciliane per utilizzare fondi europei, magari impiegandoli per altre necessità, come la messa in sicurezza di costoni e terreni scoscesi che mettono a rischio il transito viario o la percorribilità delle aree interessate. Il dubbio resta, come restano dubbi su perché proprio l'area è incontrata Pineta. Perché è anche una zona di grande interesse archeologico e naturalistico, dice il sindaco. Quindi sono utili i lavori che la mettono a riparo di desertificazione. Poco importa se negli anni Contrada Pineta ha subito una cementificazione rilevante alla faccia dell'interesse naturalistico ed archeologico. Onde chiarire ogni dubbio sulle finalità raggiunte con l'intervento, ad eccezione della riconosciuta finalità di messa in sicurezza dell'area, confidando ovviamente in lavori eseguiti a regola d'arte, temendo anzi che questo non sia avvenuto, si chiede alla Signoria Vostra di conoscere, riferendoci alle finalità del punto 1, quali i dati relativi alla progressiva perdita di fertilità e capacità produttiva del suolo area Pineta, quali le conseguenze riscontrate in campo agricolo e degli allevamenti. Premesso che l'intervento, se stato completato a regola d'arte, potrà mettere in sicurezza il costone, quale il grado di erosione del terreno vegetale dell'area trattata e quali gli effetti di riduzione delle biodiversità e della produttività biologica ha determinato. Di conoscere, riferendoci alla finalità del punto 2, se in corso d'opera sono state disposte varianti, nel senso di modifiche, sui lavori previsti per i muri a secco, la piantumazione di essenze arboree, fasce sempreverdi e quanto altro in progetto. Se la recinzione con rete ha interessato l'intero perimetro previsto in progetto o è aggiuntiva a quella posta con precedente progetto. Se la fascia sempre verde realizzata con fichi d'India, con funzione di contenimento e di parafuoco, è stata impiantata in tempi favorevoli per uno sviluppo naturale e positivo. Se i lavori effettuati di impianto di nuova vegetazione, di riassetto dei terreni, di impianto della rete, dei sostegni, delle fascine di legno e di quanto analiticamente in progetto hanno determinato controlli in itinere e qual è lo stato attuale. Se cioè lo sviluppo dell'essenza arboree, di arbusti e della fascia sempreverde prosegue e va avanti, secondo naturali e regolari stati di crescita, o risulta impedito da eventi non prevedibili o da errori di impianto. Avendo avuto l'opportunità di seguire l'iter dei lavori con documentazione anche fotografica dell'evoluzione e involuzione di quanto in progetto, si chiede infine se l'intervento risulta sottoposto a regolare collaudo e quale, nel caso, l'esito dello stesso. Nella convinzione di dubbia utilità e finalità dell'intervento in questione, si chiede formale ed analitica risposta di riscontro a tutti i punti oggetto della richiesta, onde evitare successive puntualizzazioni sullo stesso argomento. La seconda ha per oggetto sopralluogo di scarica Timba di Corvo, nuovo verbale acquisizione informazioni e relazione di servizio. Con nota numero 21584 del 18/6/2015, il decimo settore territorio ambiente del libero consorzio comunale, già provincia regionale di Siracusa, ha recapitato un verbale di acquisizione informazioni, datato 30 marzo 2015, redatto presso l'ufficio tecnico comunale, sottoscritto dal responsabile del quarto settore e dai verbalizzanti tecnici del libero consorzio. Protocollo generale libero consorzio numero 10422 dell'1 aprile 2015 e una relazione di servizio protocollo generale libero consorzio 18340 del 26/5/2015. Ha preso impegno a trasmettere su supporto informatico la copiosa documentazione relativa alle terre di scavo depositate nella discarica. Nelle conclusioni della relazione di servizio si fa riferimento alle discariche RSU del nostro territorio funzionanti con provvedimenti ex articolo 13 decreto legislativo 2297 del prefetto in un periodo dal 1990 al 2006 e successivamente con provvedimenti articolo 191 decreto legislativo 152 2006 del presidente della provincia. Si legge che le stesse risultano in atto chiuse per esaurimento dei volumi abbancabili, ma mancanti di apposito decreto autorizzativo di chiusura che permette la gestione post-operativa. È un decreto necessario, dall'articolo 183 decreto legislativo 152/2006, in quanto la gestione post-operativa è attività di gestione soggetta pertanto ad apposite autorizzazioni. Il libero consorzio ha promosso vari incontri al fine della gestione operativa delle discariche RSU, l'ultimo l'8 marzo 2012, al termine del quale le amministrazioni comunali interessate si impegnavano ad inoltrare istanza di chiusura ed autorizzazione post-operativa delle discariche comunali al commissario delegato emergenza rifiuti, all'assessorato regionale all'energia e ai servizi di pubblica utilità e all'assessorato regionale territorio ambiente servizio 1. La provincia regionale in data 17 luglio 2012 ha sollecitato i comuni al rispetto degli impegni presi. Dopo circa 7 mesi, in data 20 febbraio 2013, protocollo 1962, il comune di Palazzolo dichiarava di aver inoltrato l'istanza di chiusura e richiesta di autorizzazione alla gestione post-operativa del sito di discarica agli assessorati territorio ambiente ed energia con note 11.470 del 10/11/2009 e protocollo 11.737 del 14/10/2010, non ricevendo, si legge, alcun riscontro. Sulla base di quanto riferito nella riferita relazione di servizio dei tecnici del libero consorzio, si interroga la signoria vostra per conoscere quali atti ha intrapreso per ovviare i ritardi messi in atto dall'ente autorizzante. Si è proceduto nel lungo intervallo intercorso a formale diffida. Quali gli strumenti che hanno consentito di rendere operativa, in qualche modo, una discarica chiusa per esaurimento dei volumi abbancabili? Se è sua intenzione proporre all'ordine del giorno del Consiglio un intervento del responsabile del quarto settore, propositore di una relazione sullo stato attuale della discarica, Sull'iter conseguente al sopralluogo effettuato a settembre scorso nella discarica Timba di Corvo, sulla natura ed esistenza di quella che sembra un'altra discarica alla destra del cancello reale d'ingresso. I primi tre punti di cui sopra trovano spunto nella relazione di servizio dei tecnici del delibero consorzio. Le informazioni riferite si fermano alla nota del Comune di Palazzolo, numero 1962 del 22 febbraio 2013 e i suoi allegati. Si chiede analitica risposta scritta e la disponibilità immediata, possibilmente già da martedì, di copia delle citate richieste numero 11470 del 2009 e numero 11737 del 2010. Per completare, l'ultima per oggetto attività e presenze UTC interrogazione ovviamente. La presente necessita di premessa e considerazioni varie. In varie occasioni è stata richiesta la prevista turnazione dei responsabili e delle figure decisionali operanti in uffici cardine, quali l'UTC comunale. La richiesta non è stata ad oggi accolta, respinta con pretestuose motivazioni. Considerato che nel territorio palazzolese, sia nella parte urbana che in quella extraurbana, vengono intraprese attività edilizie di restauro immobili, di ristrutturazioni e persino demolizioni e successive ricostruzioni senza requisiti minimi di controllo, come ad esempio la prevista tabella di cantiere da cui si possono evincere la ditta, la tipologia dei lavori, inizio e fine, la direzione e altre informazioni obbligatorie di rito, considerato altresì che nel territorio comunale sono in essere attività attinenti ai lavori pubblici, alcune in conclusione e altre concluse, altre si suppone in prospettiva di definizione futura, attività tutte che necessitano di controlli più attenti e sistematici in avvio, in itinere e a conclusione, si ritiene opportuna e necessaria la riconferma della richiesta di rotazione, se già effettuabile nei tempi previsti o a maturazione dei tempi. Quanto sopra, senza intenzione di voler colpevolizzare alcuno, ma nel rispetto delle disposizioni di legge e dei minimi canoni di trasparenza richiesti alle pubbliche amministrazioni. Si rinnova inoltre la richiesta di una deliberazione di giunta municipale utile a costituire l'unità preposta al controllo dell'abusivismo, considerata insufficiente l'attività di controllo sin qui attuata. Si chiede infine alla Signoria Vostra, ed è qui l'oggetto dell'interrogazione, di conoscere l'attività svolta limitatamente agli uffici comunali dei settori 4 e 5 dell'UTC durante il mese di luglio 2014, con indicazione delle attività preminenti svolte. Le giornate e gli orari di presenza dei responsabili del quarto e del quinto settore e dei loro eventuali sostituti nell'intervallo compreso dal 7 al 28 luglio 2014. Si resta in attesa di risposta scritta della Signoria Vostra o suo assessore delegato. Grazie. Sì. C'erano... Prima di... Sì. No, io volevo semplicemente segnalare, colgo l'occasione, per segnalare un problema di sicurezza che è legato al palcoscenico che è stato montato a piazza in piazza. Perché su palcoscenico... Sì, sì, qua in piazza. Penso che durerà per tutta l'estate. Ah, già è stato... Perfetto, perché l'altro giorno si è verificato un episodio... No, la mia non è un'interrogazione, è solo veramente una preoccupazione, perché l'altro giorno è caduto un bambino, fortunatamente senza nessuna conseguenza grave. Già l'anno scorso capitò lo stesso, che un altro bambino era caduto, quindi evitare, insomma, comunque probabilmente durante l'estate sarà rimontato. Quando questo palcoscenico non è utilizzato, possibilmente è preferibile transernarlo anche davanti, se possibile, mette, perché i bambini adorano giocare su questo benedetto palcoscenico. E fin qua... Però sindaco, mi scusi, quando poi succede un episodio grave, lei sa benissimo che ne corrisponde il comune e poi non può rispondere i genitori dove sono. È un problema serio. Noi togliamo ogni tanto anche la scaletta, nonostante la no, ma. Ma perché guardi che l'altro giorno il bambino per un attimo ha perso anche coscienza, fortunatamente si è ripreso. No, secondo me bisogna transennarlo davanti o mettere perché, ripeto, suppongo che ora in estate possibilmente sarà montato anche per periodi maggiori. Appunto, appunto. Non ci sono gli operai per farlo. Metteremo un cartello e diremo quando costruiamo la cosa. Sì, Paolo. Ma fa la provincia, per il dinero per gli accessi. Sai benissimo che non basta, lo sai benissimo che non basta. Ma gli accorgimenti di smontare la scaletta, le cose che adesso l'abbiamo fatto per te. Però ci accorgiamo che si arrabbiano di fare. Ma qual è? Quando viene tutto in mezzo, perché i bambini ci giocano di sotto e poi si alzano, si mettono a cavalluccio, cioè delle spalle che sono finite. No, qual è il problema? Lo smontiamo. No, lo smontiamo. Ogni sera. E lo smontiamo ogni sera. Sì, perché solamente il 6 di gennaio all'assessore ci mancavano operai e i mezzi. Ora invece ci sono operai e i mezzi. No, ci siamo preoccupati che è caduto la terra. Ah, ecco. Ora siamo là. Ora non è un problema. Sì, io intendo portare all'attenzione del Consiglio una mozione sulla condizione degli impianti fognari del paese. Allora, ci sono alcune vie, tra cui in particolare via San Francesco e via Maniscalchi, a ridosso di Piazza Pretura, che restando come quota degli scarichi fognari, quindi al di sotto dei canali principali, o non essendo le stesse regolarmente allacciate nelle quote inferiori su Piazzale Palazzolesi d'Australia, accumulano maleodoranti odori che rendono irrespirabile l'aria, oltre che inaccettabili le condizioni igieniche dei residenti e dei cittadini in transito su queste vie. Nell'auspicare una ricognizione di tutto l'impianto urbano, si invita questa amministrazione ad attivarsi con interventi urgenti nelle condutture di via Maniscalchi e via San Francesco, al fine di attuare interventi di manutenzione e pulizia, nonché di verificare se le condutture risultano regolarmente allacciate in quota con collegamenti idonei e a rimediare così al disagio dei residenti. Sono breve, ho finito. Questo le posso fare sapere sulla base, perché non so effettivamente le persone che mi hanno rilevato questo problema dove risiedono esattamente. Se non ci sono altri interventi, si deve decidere che la chiesa chiedeva se può raccontare il servizio. Niente, io chiedevo di prelevare il punto numero 5, approvazione della carta del servizio idrico integrato, anche per liberare il responsabile. Intanto ringraziamo la presenza del Consiglio ringraziamo la Commissione della cosa un'amabilità come si è seguito. Allora, la Commissione preghiamo che l'accordo che si è seduto che non avesse alzo approvato. Argomento numero 5, approvazione della carta per il servizio di questo l'argomento è stato oggetto di valutazione della terza commissione presidente della Regenza. Sì, la commissione si è riunita grazie anche al supporto del fiscale, che ci ha illustrato l'argomento, non ha trovato nessun da dire, quindi tutta la commissione dell'attività è stata risposta del problema. Avete sentito i consiglieri che hanno dato l'iniziativa? No, parere favorevole. Una volta. Anche lì abbiamo fatto il prelievo e quindi è andato tutto calcolato, ma questa è sì. Beh, è uno strumento a tutela del cittadino, quindi pensavo che avessero fatto un bengale Il boom. Ah, le bombe! Ah! Il dirigente, scusate, per la carta dei servizi, voglio dire che è un documento al pari del regolamento che abbiamo stato approvato nella scorsa seduta, che è un documento fondamentale per il cittadino, nonché per l'amministrazione, per un buon andamento, diciamo, e per il coinvolgimento attivo dei cittadini nella gestione del servizio. E si fissano i principi generali di imparzialità, di eguaglianza, di chiarezza, di trasparenza, al fine di poter dare un ottimo servizio e avere un feedback da parte dei cittadini per migliorare la serie. Sono interventi in merito all'argomento? Come votazione allora la carta di servizio di tempo integrato che d'accordo con il Istituto che non lo si è approvato all'unanimità. Grazie. Grazie a voi. Buona serata. Grazie. Andiamo all'argomento numero 3, approvazione del programma triennale. Sì, 4 adesso approvazione del programma triennale delle opere pubbliche da attuare nel 2015 e 2017 e dell'elenco annuale dei lavori realizzati nell'anno 2015. Questo è stato oggetto di studio. Buonasera a tutti. La quale è questa, sempre sì, la domanda. Sì, parere favorevole della maggioranza, perché la maggioranza prende il parere favorevole da parte dei consiglieri di minoranza, e forse il legislatore ha espresso un modo di motivare il parere sfavorevole del consiglio. Sì. Con la parola all'assessore Giuliantino per la presentazione della domanda. Diciamo che la facciamo ogni anno, quest'anno ha subito dei cambiamenti. Passo tutto e quindi ci hanno dato dove possibile una sconfitta, cioè tutti quei vecchi progetti che o non più fattibili o già stati realizzati o in ogni caso non si ritenevano utili per la comunità sono stati elevati, non sono tantissimi, sono stati elevati. Abbiamo aggiunto qualche nuovo progetto che abbiamo fatto con i bandi che abbiamo, a cui abbiamo partecipato o dei progetti che crediamo di poter portare avanti. I piloni che hanno i finanziamenti in questo periodo che sono nel settore energetico, il settore idrogeologico e le scuole a cui stiamo partecipando, stiamo cercando di risolvere tutti i piccoli problemi che si sono posti dal punto di vista del futuro e all'avanguardia dal punto di vista scolastico. Quindi abbiamo fatto tutto quello che riguarda la normativa. Grazie Presidente. Il parere sfavorevole era dovuto al fatto che, come ha detto l'assessore, si tratta di una bellissima elencazione di opere, ma rimane un libro dei sogni. Perché? perché secondo noi la maggior parte di queste opere non verranno mai realizzate per assoluta mancanza di fondi. E allora il discorso qual è? Sì, è vero che sono state sfoltite, però forse bisognava ancora sfoltire un po' di più, perché per concentrare l'attenzione sulle opere maggiormente fruibili e gestibili, proprio perché non si può prescindere da quell'assoluta mancanza e carenza di fondi. E quindi magari, insomma, evitare quelle opere di cui il paese, cioè, per esempio ancora riportiamo i laghetti collinari, per carità, cioè, però non penso sia un'opera di cui il paese ha realmente bisogno, e quindi evitare le opere inutili e soprattutto fine a se stesse. Ora, per portare un esempio lampante, i dissuasori che sono montati in Corso Vittorio Emanuele e in via Duca d'Aosta, sicuramente la ratio dell'investimento all'epoca era giusta, dovevano servire a qualcosa, ma se questi dissuasori non li vediamo mai operativi, ci chiediamo oggi a che cosa servono, ecco, insomma. E quindi quello è un esempio lampante e palese di spreco di denaro pubblico e di opere inutili. E allora sfoltiamo, concentriamo sulle cose di cui veramente abbiamo bisogno, perché le risorse sono poche e bisogna ottimizzarle, razionalizzarle. Questo, grazie. Assistente del consigliere, è chiaro che con il programma delle opere pubbliche entriamo nella fase della programmazione, quella programmazione che magari da quel lato l'avete sempre detto, ma che l'amministrazione non ha, che i progressi hanno, ma che magari non abbiamo idea. È chiaro che quello che è scritto nell'ambito delle opere pubbliche, l'ha detto l'assessore, è quello che vorremmo fare, ma questo indipendentemente da chi è il ministro, avrebbe il desiderio di fare da quanto più possibile di farlo, ma magari è chiaro da pure, perché ormai non ci possono essere novità in questo ragionamento, che le cose che si potranno fare ma sono sempre legate a quelli che potranno essere i finanziamenti che si riescono a intercettare nell'ambito dei fondi comunitari, perché ormai non ci dobbiamo più di avere risorse regionali, forse qualcosa a livello statale per la scuola, ma comunque diciamo, le uniche risorse della realizzazione delle opere sono delle fonti comunitarie. Quando si investiva un programma delle opere pubbliche, uno cerca da lì a guardare, e questo è il caso specifico che stiamo vivendo, a quella che è stata la programmazione, diciamo, in corso alla chiusura delle fonti comunitarie 2007-2013, per la quale programmazione noi riteniamo potrebbe ancora esserci qualcosa all'ultimo momento in base alle proroghe che nella Commissione europea, nel senso che non potranno affrontare, si affronterà, e a quella che la nuova programmazione in corso di discussione con le istituzioni europee. Programmazione per la quale purtroppo siamo in ritardo già e per quello che sappiamo noi è programmazione che dovrebbe essere conclusa in quello che è, diciamo, il passaggio di approvazione del finale, speriamo non più tardi di dicembre del 2015. Quindi capite bene che in questa fase è difficile impostare anche il programma triennale su quello che possono essere poi i possibili bandi che usciranno ai primi mesi del 2016, perché è chiaro che temiamo l'uscita di parte già dai primi mesi del 2016, e molto probabilmente questo avverrà, se gli uffici poi saranno così soverchi da potere della pubblica ristampa. In questo caso noi dobbiamo essere pronti ad avere l'opera già prevista nell'ambito del piano triennale, ad averla con quella che è la priorità che tante volte il fatto lo scopo è anche questo, che uno da avere con un occhio al passato, al presente, ma soprattutto guardando al futuro, nel cercare di capire su che cosa si orienteranno una certa priorità nel pubblicare negli acquisti pubblici, e quindi come tale essere pronto per poter partecipare a questo. Io mi metto alla battuta della rete di coordinanza, io sindaco più felice di questo mondo, perché ritengo che in questa nostra realtà c'è bisogno di laghetti collinari, soprattutto in quelle zone che sono totalmente prive di acqua, e sono le zone di Falange, la zona di Coin, la zona di Sciurga, seppure di interiore di noi. È vero che in queste zone lì ne forniamo, o le riforniamo per piccole quantità, con e poi con un acquedotto, però è pure vero che quelle zone, se diventassero, diciamo così, se riuscissero a convertire il loro ordinamento produttivo con terreni in irrigo, avremmo un potenziale di produzione, soprattutto una redditività delle imprese che potrebbe essere un tantino superiore rispetto a quella attuale. In merito poi da quella che è la filosofia che ci ha guidato nell'ambito della struttura del piano triennale delle opere pubbliche, abbiamo prestato un minimo di attenzione a quelli che potrebbero essere gli interventi che ci potrebbero portare da un lato ad incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili, dall'altro lato ad ottenere un minimo di risparmio nella spesa energetica, sempre non dimenticando che questa attenzione che c'è giustamente a livello internazionale, noi l'abbiamo ogni volta fino a questo aumento della messa in sicurezza degli edifici scolastici, della riqualificazione energetica delle scuole, vorrei dire in generale degli immobili comunali, saremmo anche lì contenti se riuscissimo magari a inserire qualche altro edificio nel comunale per il quale abbiamo delle idee di riqualificazione energetica che potrebbero realmente risultare e funzionare in quella che è l'attuale spesa energetica in questi stessi edifici. Questo un pochino è il problema di chi è che si approccia a redigere un piano triennale delle opere pubbliche, e chiaramente siamo consapevoli del fatto che, come è avvenuto in passato, nessuna di quelle opere sarà fatta con fondi comunali, purtroppo. piano prendere delle opere pubbliche, no. Quindi puoi scegliere se farlo finanziare o no. donna, io su questo sono d'accordo. Non ce l'hai, hai già sentito. Però come diceva, dico, su questo sono d'accordo, infatti sogno ora, bisogna vedere la prevedenza se è necessario, se si può cedere, cioè in modo da renderlo più veritiero, visto che ci stiamo comunque inoltrando in quello che ormai la situazione è oggettiva e reale. Cioè, è inutile che sfidiamo un elenco di sogni realizzati. Ecco, okay. Figuriamoci, ce lo auguriamo tutte che magari vengono tutti, okay. Non è che quello, perché no. Però. Cioè magari non è che togliamo tempo e attenzione a qualcosa che magari è più utile, è più... ecco, questo è il discorso. Io mi auguro che ovviamente... quello se non ci sono altri interventi con votazione dell'argomento numero 4 approvazione del programma triennale delle opere pubbliche da attuare nel triennio 2015-2017 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2015 che da sotto questo istituto che non lo è si alza argomento numero 5 articolo 58 approvazione del piano di alienazione e valorizzazione immobiliare da legare al bilancio di previsione. Come sapete questi due argomenti sono argomenti propedeutici al bilancio comunale. L'argomento è stato oggetto di studio da parte della seconda commissione dei consiglieri che si è riunita stasera. Presidente Girasole, in commissione abbiamo avuto l'assessore Guglielmino e poi ha applicato l'evidenza a tutta l'articolo 58. I consiglieri di maggioranza hanno dovuto parlare di governo, il consigliere Giardina si è sempre più andato al consiglio. La ringrazio. Sono altro oggetto di studio della terza commissione, il presidente Pirezza. Sì, per fare è stato uguale a quello che è stato prima, il di maggioranza, il spessore del Forre, ovviamente il consigliere questo è simile a quello che abbiamo presentato perché prendiamo il piano della valorizzazione dell'anno precedente, abbiamo aggiunto poche cose, purtroppo abbiamo levato molto perché abbiamo perduto nelle elezioni che abbiamo fatto, per cui i nuovi Allora, noi abbiamo dato un voto sfavorevole in commissione. Il voto sfavorevole è dato dal fatto che a guardarlo non sembra un piano che possa attirare possibili acquirenti e quindi magari arrivare agli effetti sperati che sono quelli di fare cassa, monetizzare per il nostro comune. Perché dico questo? Mi sembra un piano tardivo rispetto alla situazione che sta vivendo il nostro paese. Analizziamo per esempio il costo... Analizziamo per esempio il costo del terreno di via Milano. 219.000 euro circa. Ora, chi potrebbe essere attratto a comprare questo terreno? Un costruttore, suppongo, per fare degli appartamenti, ma sappiamo tutti che l'edilizia è in crisi, che le nostre imprese sono in crisi, per cui non so quale costruttore in questo momento acquista un terreno, 200.000 euro, per poi costruirci degli appartamenti, con il rischio che questi appartamenti restino invenduti e poi magari ci deve pagare le tasse sugli immobili invenduti. E quindi credo insomma che sia un po' difficile arrivare ad una vendita. Secondo me magari si potrebbero sfruttare, come diceva il consigliere Cappellani, in sede di commissione questi terreni per altre cose, per esempio vista l'urgenza abitativa, per alloggi popolari, quindi evitiamo magari di vendere opere che potrebbero servire ad altre, beni che potrebbero servire ad altre opere pubbliche. Un'altra cosa che si potrebbe fare, per esempio, è la riqualificazione del centro storico, quindi anche la salvaguardia del nostro patrimonio, la famosa idea Sgarbi, cioè magari vendere le case ad un prezzo del centro storico, ovviamente abbandonate e previo accertamento da parte degli uffici competenti dello stato di abbandono, ad un prezzo simbolico, con l'obbligo di restaurarle in un determinato periodo di tempo e quindi dare anche possibilità e opportunità di lavoro. Peraltro proprio l'altro giorno nel telegiornale hanno detto che è un'idea questa che è stata attuata nel comune nostro gemellato, il comune di Gangi, sì. E quindi insomma, perché questo non lo dico io, lo dice il sindaco, che ci sono state due aste di due case del centro storico che sono andate deserte, ma è ovvio che una casa a 11.000 euro è un costo eccessivo, così scoraggiamo possibili acquirenti, perché già c'è difficoltà all'idea di acquistare un immobile al centro storico per tutte le motivazioni che sappiamo. Se poi lo dobbiamo acquistare 11.000 euro, lo dobbiamo andare a sistemare, ce ne vogliono per dire altri 50.000 euro, già diventa una cosa un pochettino complicata e quindi ecco che non otteniamo quegli effetti sperati. E questa, diciamo, è la motivazione per cui abbiamo espresso un parere sfavorevole in commissione. Magari se si cambia registro si ottengono risultati migliori rispetto a quelli avuti fino ad oggi. Ecco, grazie. Presidente, volevo praticamente legare al discorso fatto dalla consigliera Lucida il voto negativo. Il voto negativo giustamente nasce quando ho sentito l'assessore che ci abbiamo inserito praticamente quei due terreni di via Tagliamento. Ma i due terreni di via Tagliamento non possono essere praticamente utilizzati dal comune per fare della edilizia che possa praticamente correre incontro ai cittadini. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire praticamente, io avevo fatto un'interrogazione tempo fa, sicuramente il sindaco già se ne è dimenticato, che l'occupato praticamente del comune era gestito praticamente nelle vie della cittadina. E allora perché giustamente in quell'area dove abbiamo trovato praticamente il recupero per i mezzi della mettezza urbana, mi sembra, no? E dove praticamente c'era quell'altra area, quella che si ricorda l'assessore, dove è stato fatto praticamente il palazzetto dello sport, che veniva praticamente utilizzata come posto praticamente per il recupero della mettezza urbana per poi essere trasferita praticamente in discarica. Perché praticamente non utilizziamo quell'area di via Tagliamento per fare qualcosa del genere? Ecco, quando io dico la mancanza di programmazione, è facile dire che vendiamo il terreno di via Milano a 230.000 euro, ma chi lo deve acquistare? Come ha detto la consigliera Vicini. Il costruttore non si sente completamente nel contesto dell'azione. E allora, giustamente, perché non realizzare? Qua entra in ballo la politica. La politica del sindaco di questa cittadina, che con i relativi agganci, va bene, palermitani, può riuscire praticamente ad attrarre al comune di Palazzolo il finanziamento X per sindaco, purtroppo invece è abbastanza agganciato. Anziché utilizzare per esempio l'euro parlamentare per il viaggio a Bruxelles, lo possiamo utilizzare per queste cose, che penso che siano delle cose più corrette. ecco da dove arriva praticamente il voto negativo. E l'assessore penso che non è che era tanto in disaccordo con questo. Era in disaccordo per fare giustamente dal sindaco, ma non era in disaccordo con la parte. Quindi diciamo, allora che noi chiediamo è questo, è gestire l'amministrazione di questo paese come casa nostra. Proprio per questo io invece volevo un attimino su questi due terreni, visto che poi purtroppo la prima commissione è saltata perché non c'era il numero legale, con la seconda non sono stata presente. Invece questi due terreni, visto anche ieri che ha preso parte anche l'assessore Perla, che mi fece la prima uscita, proprio in merito, questi due terreni, se non ricordo male, erano stati assegnati, comunque individuati, come con una delibera di consiglio comunale della precedente amministrazione, se non erro l'ANPAS, con invece un progetto molto valido che ora si sta cercando a livello del progetto nazionale per il dopo di noi. Io ritengo che questo, proprio perché è un progetto, tra l'altro abbiamo avuto da poco, c'è stato il dottor Ceracchio che è uno del Ministero che si sta portando avanti, è invece una finalità giusta, anche perché questi due, questo, su questa cosa non sei d'accordo? Tu ne... No, no, ricordo questa cosa, se non erro, poi comunque lei sindaco che era allora, penso assessore, mi può dare risposta se è vero o non è vero che era stata comunque individuata quest'area da segnare all'ANPAS per questa struttura. Vero che c'è l'IVA per quant'altro, quindi si potrebbe, perché quell'area più, anche per proprio avere un vincolo specifico, lo so, però ci sono questi costi che anche in base alla progettazione non so se rientravano proprio all'interno dell'ANPAS, lì bisogna vedere bene, perché questo sarebbe una bella opportunità, cioè non tanto per, ma quanto per il servizio che viene offerto, anche perché non bisogna guardare, sì, vediamo solo, ma anche dare delle risposte concrete, perché questo fa parte anche di una progettualità, di un'amministrazione che si prende cura di queste situazioni. Tra l'altro io penso che sia un tema molto importante, perché ognuno pensa in maniera, ma voi pensate alle famiglie di queste persone, al momento che chiudono gli occhi, di queste persone, chi se ne prende cura. E quindi diventa un po' complicato, e questo sarebbe tra l'altro proprio a livello di ANPAS nazionale una cosa molto interessante che viene chiesta a più voci, e quindi anche l'amministrazione ritengo che debba essere farsi carico, visto che c'era stata individuata quest'area, magari trovando qualche anche l'area dell'IVA venendo in conto, cercando di vedere, approfondire meglio il discorso. Non so se questo consiglio mi ha consigliato. L'autostrada. No, io ci tenevo ad intervenire visto che il punto è passato anche per la commissione di cui faccio parte, perché d'altronde diventa l'argomento facile per esposto per strumentalizzare un po' un argomento che nasce secondo me da un'altra necessità. Ecco, a parte gli spot mediatici che arrivano su Canji, su altre realtà che sicuramente presentano un tessuto diverso dal nostro, noi parliamo di immobili ben differenti da quelli che fanno parte del progetto così scarpo di quello che stiamo vedendo alle Straccanti. Sicuramente là si fa riferimento a un centro storico, a un certo numero di immobili, qua parliamo di qualche immobile in centro storico, qualcun altro che ha ben caratteristiche diverse da piccole case sì, del centro urbano, parliamo di aree addirittura edificabili, parliamo di aree che realmente possono portare entrate nelle casse del comune, perché di questo si parla e credo che non dobbiamo avere vergogna. Quando si parla di un piano di relazione non c'è poi tanto da programmare, ma c'è una necessità. Vero, c'è riferimento al comune. Sì, ma scusi, come... consigliere Russo, se il comune non vende, il piano non ha fatto i suoi effetti e quindi. Questo è secondo me se ci fosse la certezza di avere già l'entrata sarebbe tutto più semplice. Ma infatti, come diceva il Presidente, il piano delle relazioni è propedeutico a quello che è il bilancio di programmazione. Attraverso il piano delle relazioni si cerca di andare a vendere dei beni che possono procurare un'entrata per il bilancio. Ripeto, oggi diventa una necessità, perché diceva il consigliere Cappellani che l'ente pubblico va gestito diciamo, come casa nostra. Io vado oltre, cioè l'ente pubblico va gestito come la nostra famiglia. Quando una famiglia è in difficoltà, credo che la prima cosa che si fa per il bene della collettività è vendere i beni, tra virgolette, voglio collettare sui beni. E questa è una necessità che ci ha portato il governo regionale. nazionale, il governo nazionale. Oggi distaccarsi da quello che è il piano della relazione, non fare un passaggio quasi strumentale politico, vuol dire non guardare quello che è il bilancio di previsione a cui tutti ci stiamo portando. Ci sono dei beni che sono stati messi in vendita proprio perché già si sta guardando a quello che è il bilancio di previsione. Dice bene lei, non c'è la certezza che i beni vengono venduti, ma lei sa bene che quelle somme vengono riportate nei bilanci e si spera che quelle somme prima del bilancio. Sì, ma allora perché non predisporre un piano che possa attrarre acquirenti anziché allontanare gli acquirenti? Questo è il discorso che faccio io. Per quanto riguarda quello che si diceva di utilizzare i beni per fare altro, io credo che proprio questa amministrazione non sia rimasta immobile. Ci sono tanti beni che oggi possono essere utilizzati per quell'attività che qualcuno decantava. Il dopo di noi, io non voglio andare oggi, vado così a memoria, ricordo che è stato fatto anche un bando per quanto riguarda lo stadio, una struttura sicuramente di grandi dimensioni, una struttura che è stata recuperata grazie agli impegni dell'amministrazione negli anni, eppure poi questi bandi vanno deserti. Ecco, questo ci deve aiutare anche l'elettro. Questo ci deve aiutare anche l'elettro, perché io ricordo che il bando prevedeva una differenziazione di anni, questo è quello che ricordo, ma nonostante questo nessuno poi si fa avanti di fronte a questo, quindi l'amministrazione investe, l'amministrazione programma, l'amministrazione recupera somme e poi il rischio è quello di vedere dei beni che non suscitano interesse. Quindi io dico, diventiamo un po' critici anche in questo, cioè adoperiamoci a lavorare per risvegliare, ecco, la società in questo senso. Sicuramente dopo di noi è un'azione che va portata avanti e va fatta con forza, ma non possiamo dire che stiamo levando beni a qualcosa. Era stato io che ho detto che era stato con una delibera di consiglio individuata quella, dico, vediamo incontro, troviamo un'altra soluzione, l'IVAB potrebbe essere, visto che questi terreni cambiavano con il sindaco, vediamoci ad un tavolo, perché anche compito di un'amministrazione, come dice lei, non è solo vendere, ma fornire dei servizi, dare delle opportunità, e quindi si trovano insieme soluzioni. Se si è fatta questa scelta, visto che c'era comunque un'assegnazione, era stato individuato da destinare a quel progetto, dico, troviamo, sediamoci, vediamo un po' cosa si può. Sempre per portare avanti il progetto. Cioè, sicuramente. Non è che è uno slogan, era perché c'era una. Dico, è un progetto che va portato avanti, mettendoci ben chiaro di fronte a noi la possibilità di farlo su altri immobili che sono ancora di proprietà del comune, su immobili che addirittura hanno ricevuto investimenti, su immobili che sono idonei per portare avanti questa progettualità. Il resto, io l'invito che faccio è trovare a tutti la consapevolezza di guardare in maniera convinta quello che si sta facendo, perché vedete, quando rischiamo di farci la guerra tra di noi nel Consiglio Comunale, ma il rischio grosso è quello di arrivare al bilancio di previsione con molte criticità, con molti problemi. Guardiamo a questo, guardiamo ai responsabili di questo percorso, perché vedete, oggi parlare di reperire fondi regionali per investire sugli immobili che noi non dovremmo vendere, quando la regione non trasferisce nemmeno quei fondi che dovrebbe per legge trasferirci, addirittura modifica la legge per trasferirci sempre meno. Quindi iniziamo a inquadrare tutti gli operatori, tutti gli attori del sistema, e guardiamo la politica con questo occhio, senza vergogna e con la responsabilità di chi deve guidare un paese e di chi deve dare risposta alla collettività. E quindi questo lo posso. Presidente, un attimo. No, perché il consigliere Russo mi ha fatto venire un'idea. Io ho fatto praticamente, ma all'inizio del mandato, no? Una richiesta per sapere praticamente quali erano tutti gli immobili praticamente che erano del comune. Fino a oggi non è stato mai fornito. Vero, Sostino? Ho fatto proprio all'inizio questa richiesta, fu un'interrogazione fatta, dove praticamente chiedevo quali erano gli immobili di proprietà comunale. Mai si è avuta una risposta a questa interrogazione, perché il consigliere Russo, io avevo detto, l'ho detto praticamente all'assessore in commissione, ce ne sono diversi praticamente immobili comunali che al momento praticamente forse non si sa neanche l'esistenza, e ho detto anche che c'erano praticamente degli immobili che non si sa come, non si sa il perché, avevano cambiato anche praticamente le facciate, pur essendo immobile comunale. Quindi questo, Presidente, me ne faccio nuovamente, ci sono praticamente degli immobili che hanno cambiato le facciate, però siccome non si sa, allora per me sono un mobile comprato, però siccome non ho avuto una risposta scritta praticamente, va bene, quindi penso se lei me la fa, se ne fa carico praticamente di questa mia richiesta per avere praticamente non è lei, sono occupato, sono occupato. Noi abbiamo un elenco di tutto quello che è comunale, lo spulciamo di volte in volte per vedere dove poter far cassa, quindi se ce ne sono uno che ben venga, cioè non è... Assessore, io non ho fatto richiesta, non mi è stato mai fornito. Quindi lei dice che c'ha praticamente l'elenco, se per cortesia me lo fornisce. Ma io mi fermo, non ho delle risposte tecniche, tanto per dare i valori non è che li inventiamo noi o li diamo senza una motivazione. Il valore deve essere un valore di mercato, fatto da una perizia dei nostri tecnici, per cui in ogni caso la base di partenza deve essere sempre quella. Perché se, come in questo caso, abbiamo dato valore di 130 euro al metro quadrato per una zona B che è quello sia catastale sia soprattutto dal punto di vista del mercato, che non arriva, perché poi dipendono da lì i valori, non possiamo darlo né più alto né più basso, perché se lo diamo più basso, qualcuno ci può dire giustamente che sta riprendendo il terreno comunale, per cui noi dobbiamo partire dal valore, se lo abbiamo più alto, sicuramente è evidente quello che ha detto il consigliere di Centro prima, per cui partendo da 170 euro al metro quadrato arriveremo a 20 altre prima di arrivare. Però dobbiamo partire naturalmente dal valore di mercato, valore di costo, partiamo dal valore più basso, chiuso, ricco, giustamente dovreste dire, state svendendo le terreni comunali, il valore deve essere quello di merito e quello di mercato, più alto sì, più basso no, perché potrebbe esserci un problema reale di poi l'ho visto io, che tu ti sei venduto del terreno per un valore minore. E quindi ma infatti valore, io non contesto il valore. Il mercato e le aste che vanno deserte, come è successo in alcuni casi, l'immobile media d'asta, l'immobile via Paolo Marino, man mano che si abbassa, anche se il valore resta più alto, perché il valore di pericolo di un pericolo è quello reale, ed è 30.000 euro, siamo arrivati a 10.000, non riusciamo a prenderlo, ma mettiamo 10.000 nel bilancio, lo mettiamo nel bilancio, quindi non passiamo il bilancio, questa è la prima. Poi per quanto diceva il consigliere Cappellani, che queste aree potevamo darle come case popolari, volevo fare con altre cose, abbiamo regolato, ci sono delle aree dedicate alle case popolari, sono in casa oggi, ed è, sono in via Colleotto, c'è una zona vetro grandissima, in via dietro la Scintilla, c'è una zona sempre per case popolari lì, e in ogni caso il comune ha fatto quello che si è detto, il centro storico, riprendendo 10 alloggi e dandole a casa sostenibile, riprendendo da un lato il centro storico e dall'altro lato venendo incontro ai cittadini con alloggi per loro. Per cui quello che diceva è stato fatto, prendere altre aree e dedicare una cosa, cioè sommare 100 milioni di quadrati di aree per alloggi di casa popolare o meno che abbiamo e metterne altre 10.000 non ha nessun senso, sia perché abbiamo già 100.000 sia perché abbiamo un centro storico da riprendere. Quindi la sua esigenza è giusta, noi la stiamo dedicando o al centro storico per riprendere il centro storico in dare degli alloggi o nelle aree già previste da PMG per case popolari o alloggi attraverso crisi economiche. Quindi aggiungere altre aree non sempre valente perché già dal punto di vista del parametro siamo molto più in alto. Scusi. Perché o si può anche non vendersi, però dalla casa secondo me no. Sì, grazie Presidente. Volevo solo precisare, io non stavo discutendo sul valore del. Perché ci mancherebbe, qui nessuno vuole svendere i beni del comune. Il timore invece è proprio quello che nessuno lo acquisterà e che quindi non si monetizzi per il comune, proprio per andare anche. Fatto un'asta appositamente per quello che poteva comprare a 100.000, invece partendo dal valore di mercato, se poi si arriva a 100.000 attraverso 10 aste deserte, nessuno potrà dire, poi in ogni caso, la mia gente l'ha fatta. l'amministrazione ha fatto tutto quello che poteva fare per raggiungere il valore del mercato, nessuno l'ha acquistato, che può vendere a 100.000 ci vende a 100.000. Questo è il... Sì, grazie. Io volevo cogliere l'occasione perché mi pare 2-3 consigli fa noi abbiamo presentato una richiesta per una commissione d'inchiesta sulle alienazioni. Commissione d'inchiesta? Sì, per l'istituzione di una commissione d'inchiesta. Mi ricordo che subito dopo gli uffici stavano predisponendo l'argomento per portare all'ordine del giorno del consiglio successivo e mi fu chiesto di dare una definizione più completa sul funzionamento e sulla durata e tutto il resto e al consiglio successivo io diciamo che ho fatto presente che credo che sia giusto che intanto le norme vengano concordate da tutto il consiglio e sempre se da parte del consiglio c'è la volontà ad istituirle, perché se le istituiamo devono essere uno strumento utile e funzionale, altrimenti è inutile. Quindi volevo chiedere al Presidente di sollecitare, non so se sotto forma di una conferenza di capigruppo allargata, troviamo la formula, quella che è, intanto il modo per sottoporre al Consiglio la volontà o meno di istituire la Commissione, dopodiché disciplinarla. Sì, e io infatti ho chiesto, sì, siccome credo che può essere una cosa concordata assieme, volevo intanto capire se c'è una volontà da parte del Consiglio di costituirla, poi le norme le scegliamo tutte assieme in modo che non c'è una proposta nostra, perché è un problema che penso sentirà tutto il Consiglio, per questo. È previsto dallo statuto, però non è. È previsto dallo statuto che si chiama così. Quindi, so che è un termine che inquieta, però si chiama così. Sì. Va bene. Va bene, grazie. Se non ci sono ulteriori interventi, pongo votazione l'argomento numero 5, articolo 58, approvazione del piano delle attrezioni e valutazioni comunitarie. Da legale al rilascio di previsione 2015. Chiedo accordo che si seduto che non presi altri. Argomento numero 6. L'orario per ordine del giorno a progetto di iniziativa diretta al rafforzamento della sicurezza del comune di Palazzo Marino. Devo passare la parola al primo firmatario, devo complimentarmi per questo ordine del giorno che reputo fortemente attuale, visto anche gli ultimi episodi che si sono avuti da ieri, da ieri stamattina quasi avvenuti nella comunità. Quindi passo la parola. voglio dire, questo c'è tempo per desiderare parte, perché ho proprio un tema sulla conversa, su quello che sta succedendo in questi giorni nel nostro lavoro e magari nelle nostre campagne. Volevo segnalare un fatto di sicurezza, un altro aspetto della sicurezza, oltretutto alla comunità e alla cultura. In quest'ultimo mese molti cittadini che io ho preso, cioè ci sarà la situazione forse dei migranti che sono alloggiati, non so bene, forse sono diciamo una sciocchezza, adesso forse o posto, sì. Di notte camminano nella mare Monti al contromare, c'è uno si ritrova di fronte improvvisamente e la mare Monti dice che si sa, non è la scorrimento veloce, però già c'è una velocità più elevata per fronte al centro urbano. C'era un fenomeno da segnalare, perché forse saranno bruciate là, poi se ne vanno, perché si trovano sotto cani gattini, nella rotonda, cioè a camminare a piedi. C'è un aspetto da non sottolineare, da comunicare questo. Perché da un po' di tempo che ci sono molti. No, va bene. Io sento il dovere di ringraziare il consigliere per mandare di questo mattino all'ordine del giorno, che nella qualità di sindaco, ma anche nella qualità di cittadino, ha ritenuto appropriato a quello che sono le vicissitudini che stiamo vivendo purtroppo da questa comunità, che è la nostra comunità della zona montana, in termini di ripresa o recrudescenza di quello che è il fenomeno dell'amiciato e purtroppo di quelli che sono anche i punti in appartamento. Purtroppo sono corsa, i dati ne riconoscete tutti, ne siete tutti informati e quindi è un fenomeno che veramente mi preoccupa. Tenevo un pochino a informare a questo consiglio comunale che abbiamo avuto un incontro con Sua Eccellenza il Prefetto, incontro che avevamo chiesto sia come amministrazione comunale di Palazzo Lagretto, ma avevamo chiesto anche come Unione di Comune Valle del Tenere. A questo incontro hanno partecipato da tutti i sindaci e gli amministratori, diciamo, i sindaci delle sette comuni dell'Unione. Erano presenti all'incontro, tra l'altro, diciamo, una rappresentanza dei carabinieri, una rappresentanza della Guardia di Finanza, una rappresentanza del signor professore di Siracusa, oltre ovviamente al prefetto. In quella circostanza non abbiamo ma sottolineato in questi eventi, comunque abbiamo fatto i passaggi che sono nell'ambito di questo punto all'ordine del giorno e chiaramente il prefetto ha preso impegno di concursare insieme alle forze del rappresentante delle forze dell'ordine del presente di assicurare una maggiore sorveglianza. È chiaro che abbiamo chiesto tenendo conto anche di quelle che sono le difficoltà che noi tutti sappiamo esserci a livello nazionale, voglio invitare a parlare del nostro contesto diciamo comprensoriale, magari provinciale, tenendo conto di quello che è l'esibilità delle forze dell'ordine, l'impegno che le stesse forze dell'ordine stanno mettendo nel prestare la giusta accoglienza, anche il giusto controllo del fenomeno dell'immigrazione, tenendo conto di quelle che sono le scarse risorse economiche che purtroppo la prefettura e anche le forze dell'ordine hanno come fine del pattugliamento del territorio, tenendo conto di queste cose abbiamo chiesto noi nell'ambito della zona montana puntiamo ad avere un rafforzamento delle forze dell'ordine. chiesto che quello che normalmente avviene o comunque eccezionalmente avviene, perché non dopo lo vedremo, normalmente lo eccezionalmente, nell'ambito di alcune circostanze, da quando viene istituito il servizio di, diciamo così, pattugliamento delle ore serali, avremo tutte una seguito di eventi diciamo così che lo richiedono, questa possa diventare, non nell'eccezione, ma possa diventare un po' diciamo la regola per la zona montana, mettendo in atto quei servizi integrati tra la stazione dei carabinieri e dei comuni della zona montana. Cosa voglio dire? Siamo perfettamente consapevoli che il servizio serale notturno, la stazione dei carabinieri di Palazzolo non è in grado di fornirlo per tutte e 365 giorni della settimana. Però siamo perfettamente consapevoli che con minimo di sforzo un coordinamento tra la stazione di Palazzolo, quella di Testa dell'Acqua, quella di Pucchiere, quella di Cusceni, quella di Cassia e quella di Ferro può portare ad avere un servizio a turno assicurato dalle reste delle stazioni e magari nel turnarsi averne costantemente, quindi un servizio nella zona montana con una macchina che si attiva nella zona montana per i 365 giorni. Questa è stata una delle richieste che abbiamo fatto in maniera chiara, senza diciamo così infingimenti o senza una grande parola. Chiaramente il prefetto e anche il rappresentante delle forze dell'ordine hanno detto che verificheranno se questo può essere possibile, perché dovete anche sapere, ma questo sicuramente ve ne siete accorti, che normalmente nella stagione estiva, nel bene o nel male, un servizio di questo tipo già esiste. Quindi alcune volte se diciamo così abbiamo bisogno, possibilmente non arriva la macchina dei carabinieri di Palazzolo, ma arriverà quella di Cusceni, quella di Pucchiere, e quindi i tempi di percorrenza per poter arrivare sui luoghi chiaramente si abbreviano notevolmente. L'altro è oggetto di discussione è caduto sulla transumanza, perché riteniamo che sulla transumanza si deve ritornare a parlare, sui transumanti si deve ritornare a parlare, e anche qui il prefetto si è ripromesso di recuperare un protocollo dell'intesa che avevamo sottoscritto con l'Unione dei Comuni Valle degli Iblei e di riconvocare una nuova riunione alla quale doveva essere invitata l'ASTI, che il protocollo d'intesa non aveva firmato, e chiaramente nell'ambito di questo ragionamento della transumanza e anche diciamo, a supporto della prevenzione del come deterrente al fenomeno dell'abigeato, è stato preso impegno di valutare insieme poi quello che sarà il rappresentante dell'ASP la possibilità di andare a velocipare l'elemento animale, così come tra l'altro proposto dal dottore De Fabio e messo nell'ambito di un incontro pubblico che si è tenuto in questo comune, nella sala aperta di questo comune, perché potrebbe essere anche un'azione sperimentale che partendo da questa zona montana, naturalmente vocata alla nostra vicinanza, si potrebbe poi estendere quello che è il territorio provinciale, magari un territorio della provincia di Capri. Questi diciamo gli argomenti discussi nel prefetto, aspettiamo diciamo, questo ulteriore incontro e speriamo un pochino, auspichiamo che quando le discussioni sono concordate possano trovare se diciamo riscontro nelle giuste sedi e chiaramente ai vari livelli, sia diciamo, provinciale, regionale e nazionale. Grazie signor Sindaco, consigliere Pettinati. Signor Sindaco, io volevo solamente dire perché non possiamo a livello municipale correre tanto ai ripari tramite gli agenti della polizia municipale, che già giustamente sono impegnate per l'intera giornata, però se praticamente proprio nel periodo estivo, anziché praticamente concludere il servizio alle 20, lo si può praticamente prolungare fino alle 24, che poi sai, sono quelle ore quando praticamente i nostri concittadini vanno a fare la passeggiatina per le vie del paese, e quindi sono anche quei momenti quando si possono verificare praticamente i furti e quant'altro. Quindi potrebbe essere praticamente anche un'azione deterrente, vedere anche che gli agenti della polizia municipale sono praticamente presenti in paese. Sì, grazie, io mi volevo allacciare a quanto detto dal consigliere Sicona, perché immagino sia capitato a tutti di percorrere la Mare Monte, tornare da Siracusa o andare a Siracusa e incrociare dei migranti che camminano e si recano non si sa dove. Poi magari a seconda dell'orario in cui si passa si scopre anche dove vanno, perché a me è capitato di vederli poi entrare in un terreno oltre cani e gattini in cui probabilmente vanno a lavorare, cosa che tra l'altro per un richiedente asilo non sarebbe neanche ammesso legalmente. Mi è venuta l'idea, al di là di quello che si può pensare di fare, anche se non ha molto a che fare con il tipo di sicurezza che è all'ordine del giorno stasera, questo consiglio, pur non essendo territorio di Palazzolo, potrebbe farsi promotore di una bolletta, quantomeno per l'acquisto di giubbotti catari frangenti per questi migranti. Non so quanti sono, non è territorio nostro perché credo risiedano all'Orsi Don Bosco, quindi però sarebbe credo un bel gesto da parte del consiglio. Tutto pronto, grazie. Deciso di puntare sul Siracusa come punto di le partenze da un'altra una destinazione del nord Italia o del nord Europa. Quando arrivano a questo è solo perché si sono sbagliati. E questo è quello che abbiamo potuto capire, perché a noi è capitato nelle due, tre, quattro occasioni in cui mi sono state segnalate che siamo andati lì con gli interpreti, comunque con persone che ci arrivavano anche a comprenderne e diciamo la lingua, e abbiamo capito che loro entravano e cercavano Siracusa e credevano di essere in un posto vicino a Siracusa o comunque di essersi avvicinati a Siracusa. Quindi in queste circostanze siamo di fronte a gente che non vuole essere riaccompagnata alla vostra posto, perché abbiamo anche, ci siamo messi anche a disposizione di dire vi riaccompagniamo noi per evitare che magari potete camminare e correre a vincere. Non vuole essere accompagnata alla sua posto, voglio andare a Siracusa. Quindi chiedono come da poter raggiungere Siracusa. Quindi cosa non voglio dirvi? Che questa cosa non è una cosa destinata a trovare una soluzione nell'immediato, è una cosa destinata ad evolversi e con l'evolvere del fenomeno dell'immigrazione e quindi possibilmente non a diminuire ma possibilmente ad incrementarsi e incrementare con l'incrementare di quello che è il numero di persone che approvano nell'ambito delle coste del siracusane che devono necessariamente trovare ospitalità e a farne, ai quali abbiamo l'obbligo di dare la giusta ospitalità. Qui il prefetto in qualche modo ha dimostrato come quelle che sono le difficoltà che stiamo riscontrando a livello provinciale, perché sapete bene, una buona parte del lavoro, tantissimo lavoro, oltre a essere fatto dalle forze dell'ordine, è demandato al volontariato, ma al volontariato puro, senza tra l'altro orari, senza vedere se è giorno festivo o giorno feriale, senza guardare se sono ore diurne, ore serali, ore notturne, quando si deve intervenire è chiaro che si interviene. E qui devo anche dire che i nostri volontari della protezione civile in diverse occasioni hanno dato la disponibilità, sono persone importanti, quindi come dato mi fa piacere che si sono messi a disposizione. Il discorso del Gilet, a mio avviso, con questa situazione così non è facilmente gestibile, perché tra l'altro il responsabile del centro di prima accoglienza del posto non posto ha ammesso che tante volte non si capisce neanche per quale motivo, ma trovando il cancello chiuso, tante volte tagliano la rete per uscire dalla rete, quindi non sia lontano in maniera, diciamo così, discorsa, sia lontano molto tempo per non essere visti e proprio per intraprendere questo cammino che viene portato dal nord Italia al nord Europa. Allora, un salto dove mi se ne parla? No, loro che si limitano a fare una comunicazione di questo tipo, degli immigrati che si sono lontani. Ma è veramente, cioè, io capisco che effettivamente il centro di prima accoglienza non ci vuole più molto, perché se no dice sì, tu te lo puoi andare quando vuoi, tu a me, ma almeno mi dà un giubbotto che costa un euro che si vede, perché guardate è veramente pericoloso, cioè non è affatto una cosa, cioè stiamo andando fuori, ma è un centro di stato di sicurezza, trovarsi nel centro di stato, perché poi non camminano in via, ma non tutti sanno qual è la strada. Certe volte cammina una doppia fila e tu in curva tu stessi che poi sei umano, non è che ti devi, che fai? Tu stessi e ti metti a sfrontare la tua vita e quella di quella povera gente che cerca accoglienza. E allora effettivamente se si apprezzano di un media, è giusto di te, ti danno un ciupotto di barbata, come dici, guarda, che cosa metti in fuoco? Posso andare? Però se eventualmente non hai, metti un vinto a me, si vede dopo il caso. Vabbè, e può essere una segnalazione che va a si possono scendere anche con una passeggiata. Vedete, l'altra volta ce n'erano più di 40. 40 anche con bambini. Cioè, è una cosa che può scaricare molto. Sì, se poi non è un po' scelta. È un'idea che si può dare, cioè, effettivamente. Diventa una grande visita. Bene, se non ci sono altri interventi, poco produzione argomento numero 6, ordine del giorno, iniziativa diretta al rafforzamento della sicurezza e al comune di Marcola Cadene. Chiedo a Coppola l'istituto che vivere con la testa di San